Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Deborah Rosciani e Salva Danaio, buona giornata. Con la puntata di oggi seguiamo da vicino l'attualità, le decisioni importanti che verranno prese dal Parlamento nei prossimi giorni. Come sapete, la spending review, la riorganizzazione della spesa pubblica del governo Monti, la manovra sul taglio delle spese, in particolar modo dello Stato, di cui si parla da tempo, è addirittura d'arrivo. Il testo arriva al Senato domani, Palazzo Madama esaminerà il documento e il voto finale, su cui è stata messa la fiducia, potrebbe arrivare nella mattinata di venerdì 27 luglio. Ma domani succede anche qualcos'altro che interessa più direttamente voi che ci ascoltate, tutti i cittadini. Resteranno infatti chiuse le farmacie, quelle private perlomeno. Chiuderanno, abbasseranno le saracinesche proprio in protesta nei confronti di alcuni tagli contenuti nella spending review che vi spiegheremo oggi con i nostri ospiti. Salva Danaio vi vuole mettere al corrente delle modalità e delle motivazioni dello sciopero. Iniziamo intanto a tranquillizzarvi, perché i servizi fondamentali saranno naturalmente garantiti, e cioè le farmacie, che sono di turno obbligatorio, non abbasseranno la saracinesca, così come non lo faranno le farmacie comunali. Ma in ogni caso la protesta resta aperta e chiaramente oggi va anche raccontata, in modo tale che domani non abbiate nessuna sorpresa. Ci chiederemo anche quali conseguenze potrebbero arrivare in seguito a questi provvedimenti sul servizio offerto ai cittadini nelle prossime settimane, visto che, come sappiamo bene, e questo è un punto fondamentale sul quale gli operatori del settore vogliono puntare il dito, la farmacia rappresenta in molte realtà un punto di riferimento importante, in qualche località l'unico punto di riferimento. Offre spesso servizi gratuiti come screening, aperture notturne. C'è anche da ricordare che la categoria è in uno stato di agitazione permanente da qualche tempo, e l'agitazione è aumentata quando è stato varato l'ultimo pacchetto sulle liberalizzazioni, che prevederebbe l'apertura di molte altre farmacie sul territorio. C'è anche su tutto questo da qualche giorno uno sciopero della fame da parte del presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli. Insomma, molta carne al fuoco da spiegare bene ai nostri ascoltatori. Come sempre potete intervenire in diretta chiamandoci all'800240024, scrivendoci i vostri commenti sui vari canali che abbiamo a disposizione per voi, messaggi al 349-238-6666, mail all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, e potete anche andare a commentare i temi che abbiamo scelto sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Anzi, se accorrete oggi a mettere il vostro like, il vostro mi piace, magari proprio in questa giornata riusciamo a raggiungere i 2000 utenti che ci seguono sulle social network. Chi ci sarà con noi questa mattina? Cesare Fassari, direttore responsabile di quotidianosanità.it, che saluto. Buongiorno Cesare, benvenuto direttore. Buongiorno a voi, grazie. Saluto e ringrazio Gioacchino Nicolosi, vicepresidente di Federpharma. Federpharma è la federazione che rappresenta le circa 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Vicepresidente, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Stavo dicendo presidente, ma la presidente di Federpharma, Anna Rosa Racca, è impegnata in un altro tavolo che tra poco vi racconteremo anche in queste ore che cosa sta facendo, di che cosa sta discutendo. In questo tavolo sono impegnati gli altri due ospiti che speriamo di poter raggiungere nel corso della trasmissione, cioè sentiremo Venanzio Gizzi, presidente di Assofarm, la federazione che rappresenta a livello istituzionale e sindacale le aziende speciali, consorzi, servizi farmaceutici e le società che gestiscono le farmacie pubbliche, e poi sentiremo anche Andrea Mandelli, presidente della FOFI, la federazione degli ordini dei farmacisti. Vi ho anche raccontato come potete intervenire per commentare questi temi. Prima però di entrare nel vivo del dibattito su questo argomento che ci interessa a tutti, vediamo un po' la borsa se oggi ci permette di respirare un po'. Pare di sì, almeno fino a questo momento niente di particolarmente entusiasmante. La borsa è positiva in Europa, ma comunque si vede che viaggia con il freno a mano tirato. Milano segna più 1,5, Parigi più 0,57, Francoforte più 0,42, Londra più 0,25, di circa 2 punti il rialzo di Madrid. Milano e Madrid guadagnano un po' di più perché sono state le borse più bastonate negli ultimi giorni, come sapete, con questa crisi che dalla Grecia ormai si è definitivamente trasferita in Spagna, e noi stiamo qui a monitorare con attenzione se non si trasferisca anche da noi. In ogni caso, lo spread è a livelli ancora molto alti. Stamattina è partito a 546 punti base per poi scendere sui 520, ma insomma noi vorremmo che scendesse ben al di sotto anche di 300, ma sono livelli che non vediamo da un po', sicuramente non li vediamo da marzo. E questi livelli di borsa soprattutto non li vedevamo dal marzo del 2009, quando dopo la crisi dei mutui subprime raggiunsero il loro minimo da oltre 12 anni a questa parte. Adesso siamo di nuovo ritornati su quei minimi sulla fine degli anni 90 e quindi insomma certo per qualcuno una grande occasione d'acquisto anche sul mercato azionario, per qualcuno invece ancora motivo di ansia e preoccupazione. L'euro sul dollaro a 1,2187, i migliori titoli di Milano sono gran parte quelli del settore bancario, UbiBanca più 6, A2A più 4, Popolare dell'Emilia Romagna più 4, Intesa San Paolo più 3,64%, Buzzi Unicem più 3,62%, Ansaldo più 3,42%, Manca Monte dei Paschi più 3,38%, più 3 punti anche per Telecom, per Unicredit, per Generali, per Mediolanum e per il Banco Popolare. Segno meno invece stamattina su Mediaset che perde un punto, Eni meno 0,8%, Diasorin meno 0,7%. Questa è la borsa, quindi ribadiamo che oggi abbiamo un quadro positivo, prendiamo un po' d'aria, speriamo che soprattutto oggi Wall Street ci aiuti a consolidare questo piccolo recupero. Adesso lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Domani farmacie in sciopero. I farmacisti italiani si preparano ad abbassare la saracinesca in segno di protesta. Le circa 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale presenti nel bel paese hanno infatti deciso di scioperare nella giornata di domani, giovedì 26 luglio, contro alcune misure previste dalla Spending Review del governo Monti, che proprio domani arriverà al Senato per essere votata con ogni probabilità entro la fine della settimana. Resteranno aperte le farmacie comunali, ma il malcontento rispetto ai tagli sembra essere condiviso da tutta la categoria. Le federazioni e gli ordini professionali non hanno reagito bene alla notizia della riduzione del tetto della spesa farmaceutica territoriale, che sembra destinato a passare dall'attuale 13,3% della spesa sanitaria complessiva al 13,1% per il 2012, che si ridurrà all'11,5% il prossimo anno. Direttiva contenuta nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio scorso, insieme a quella relativa all'aumento dell'incidenza dello sconto a carico delle farmacie convenzionate per i medicinali del Servizio Sanitario Nazionale, che aumenta dal precedente 1,82% al 3,65%. Secondo le stime di Federpharma, questi oneri costeranno mediamente ad ogni esercizio circa 40.000 euro. Una perdita che, dicono dalla federazione che raggruppa il 99% delle farmacie private italiane, potrebbe costringere a rivedere complessivamente le strategie gestionali, provocando la perdita di 20.000 posti di lavoro e causando un calo della qualità del servizio offerto ai cittadini. 800 24 00 24 è il numero verde che vi permette, se vorrete, di intervenire in diretta. Potete anche scriverci al 349 238 6666, poi darò lettura di qualche messaggio, non vi dico neanche di che tenore stanno arrivando, però li voglio condividere con i nostri interlocutori di questa mattina, perché poi su questi argomenti che noi riteniamo importante trattare, la percezione che passa all'esterno molto spesso è tutt'altra. C'è poca solidarietà, devo dire la verità, almeno dai messaggi che sono arrivati fino a questo momento nei confronti della categoria, e però in realtà ci sono dei rischi occupazionali anche in questo settore e questo lo dobbiamo pure raccontare. Ci potete anche scrivere a salvadanaio@radio24 o, come vi ribadisco, sul nostro profilo Facebook. Volevo però recuperare per intero la situazione per spiegarla meglio ai nostri ascoltatori con Cesare Fassari, direttore responsabile appunto di quotidianosanità.it, collega che spesso ci aiuta appunto a capire bene le dinamiche di questi mondi. Noi parliamo molto spesso, direttore, di tematiche legate al risparmio e sappiamo bene anche nell'ambito del bilancio di una famiglia quanto può essere rilevante il peso delle cure mediche, quindi farmaceutiche. Andare in farmacia qualche volta non è una passeggiata facile per molti consumatori, che lasciano lì anche qualche volta una bella fetta del proprio stipendio, e questo è un tema importante da rilevare, perché chiaramente anche la riorganizzazione imposta dalla Spending Review potrebbe anche ricadere sul cittadino finale. Ci puoi spiegare in termini semplici quali sono le preoccupazioni della categoria? Sì, in realtà nella tua domanda facevi trasparire giustamente una preoccupazione che va al di là delle ricadute adesso sulle farmacie italiane, che sono ovviamente le protagoniste della giornata per lo sciopero di domani, perché effettivamente questa spending review, pur se il titolo del decreto cita ad invarianza dei servizi, cioè razionalizziamo la spesa ma non toccheremo né la qualità né la quantità dei servizi pubblici che erogano in questo caso le ASL, le farmacie, gli studi medici, gli ospedali, è un po' difficile crederci, perché quando andiamo a fare i conti complessivamente tra questa spending review, che stima di portare risparmi per 4,7 miliardi di euro dal 2012 al 2014, e i tagli che sono ancora in vigore, di cui non si parla mai, della vecchia manovra che ormai abbiamo dimenticato, ma è solo di un anno fa, dell'allora governo Berlusconi, ma che entrerà in vigore proprio dal gennaio 2013, quindi a brevissimo, sono altri 7 miliardi e mezzo di tagli, quindi un salasso per la sanità che complessivamente supera abbondantemente i 10 miliardi, arrivando a circa 12 miliardi di euro in 3 anni. Allora, è chiaro che oggi parliamo di farmacie, ma qui a mio avviso hanno ragione, in questo caso le regioni e non solo loro, a temere un collasso dell'intero sistema. Ora, la scommessa che il governo Monti sta facendo anche con le farmacie è no. In sanità c'è ancora qualcosa da tagliare, ci sono sprechi, ci sono inefficienze, state tranquilli, noi tocchiamo solo quelli, quindi state tranquilli categorie, state tranquilli cittadini, non toccheremo i servizi. Ecco, la scommessa è questa, io personalmente seguo la sanità purtroppo da tantissimi anni per la mia ormai non più giovanissima età. Posso dire che quando ad un servizio pubblico tagli in pochissimo tempo una quota che è quasi il 10% del totale della spesa, beh, è un po' difficile che non ci saranno ripercussioni. Esempio, e vengo al punto, i farmacisti scioperano per due motivi, gli hanno aumentato lo sconto, cioè quella specie di tassa nella tassa che comunque i farmacisti devono restituire al servizio sanitario, e soprattutto hanno ridotto il tetto di spesa per la convenzionata territoriale. Che vuol dire? Vuol dire che lo Stato darà meno soldi per erogare i farmaci gratuiti attraverso le farmacie. E questo vuol dire che prima o poi i cittadini forse avranno meno assistenza farmaceutica, non dimenticando, e tu l'hai detto, che già oggi, essendoci il ticket sui farmaci ormai in quasi tutta Italia, i cittadini gran parte di questa spesa se la pagano anche col ticket. Questo è il quadro. Quindi è vero che la categoria dei farmacisti è amata, odiata, per cui i sondaggi sono diversificati, ormai da anni io leggo sondaggi di organismi indipendenti che a torto o ragione collocano i farmacisti al primo posto nel gradimento dei cittadini tra gli operatori sanitari, per un motivo semplice: il farmacista c'è sempre. Ecco, questa è un po' la realtà. Poi è chiaro che quando una categoria che nell'immaginario è ricca, è fatta di professionisti che comunque hanno un bel negozio, questo è un po' l'immaginario, perché le farmacie non sono tutte uguali, la grande mega farmacia in una metropoli è diversa dalla piccola farmacia in un piccolo comune, e oggi le farmacie private convenzionate garantiscono il servizio in tutta Italia. È chiaro che non mi possono stupire dei messaggi che tu non ci hai letto, ma il cui tono ci hai fatto immaginare. Sì, poi se vogliamo un po' divertirci li leggiamo anche, perché poi altrimenti gli ascoltatori si lamentano del fatto che li censuriamo, e siccome dai nostri microfoni non passa mai alcuna censura, questo lo posso assicurare, noi cerchiamo solamente di non far parlare le persone volgari, quelle che si agitano inutilmente, ma la protesta, se c'è, la condividiamo, così come appunto i punti di vista diversi dai nostri. Noi qui oggi non vogliamo prendere nessuna posizione, ne vogliamo però sentire le motivazioni per cui questa contestazione c'è e che domani appunto porterà, come dicevo, ad abbassare la saracinesca da parte delle farmacie private. Allora, abbiamo detto in primo luogo il tema del tetto della spesa farmaceutica, poi lo sconto dovuto dalle farmacie convenzionate al Servizio Sanitario Nazionale che è stato incrementato, anche il vecchio pacchetto delle liberalizzazioni, ma c'è un altro tavolo del quale si sta discutendo proprio in questi minuti a Roma, credo a Palazzo Chigi, il tavolo sulla remunerazione. C'è anche questo fra i problemi che in questo momento la categoria sta affrontando, e allora volevo chiedere delucidazioni al vicepresidente di Federfarma, Gioacchino Nicolosi, anche se poi chiaramente Più tardi sentiremo meglio i farmacisti che sono i diretti interessati a questo tavolo, appunto il tavolo della remunerazione. Quindi il vicepresidente di Federpharma con noi, lo ribadisco, Gioacchino Nicolosi. Gli chiedo intanto se ci sono dei margini su cui trattare affinché lo sciopero di domani possa essere scongiurato. Allora innanzitutto vi devo ringraziare perché la panoramica che avete fatto è una panoramica molto corretta e molto circostanziata. E capita in poche trasmissioni che ci sia una correttezza di trasmissione di notizie ai cittadini così chiara. E questo sicuramente devo dare atto, l'avete fatto sicuramente in maniera equa e perfetta. Grazie. Prima di arrivare alla risposta, però, devo fare due precisazioni che sono importanti. In tutta questa operazione, altri, non è da adesso che ci lamentiamo perché noi altri vogliamo continuare a dare al cittadino che ci vuole bene, che in tutte le indagini comunque ci riconosce il nostro lavoro, la nostra dedizione, la possibilità di avere un farmacista dove lo vuoi, quando lo vuoi e come lo vuoi, senza dover pagare nulla. Noi vogliamo continuare a dare questo nostro servizio, vogliamo continuare a essere dove non c'è nessuno, dove non c'è una vetrina aperta, c'è la farmacia. Noi abbiamo delle realtà attualmente in Italia, delle zone di grandi metropoli, delle zone di periferia, delle zone dove non esiste nessun'altra attività, c'è soltanto la farmacia, c'è soltanto l'insegna della farmacia. Noi vogliamo avere la possibilità di continuare a fare questo. Vi posso dire che a Scampia nell'ultimo periodo si sono chiuse tre farmacie, perché erano farmacie che lavoravano soltanto con il sistema sanitario nazionale, sono fallite, ma ricordiamolo perché praticamente anche le farmacie non possono pagare i loro fornitori, perché a sua volta il settore pubblico non... A Napoli e in alcune realtà del sud ci sono delle situazioni drammatiche per quanto riguarda la possibilità di ricevere i soldi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. A Napoli c'è il presidente di Federpharma Napoli, il presidente dell'Ordine di Napoli, che fanno lo sciopero della fame da 5 giorni per far cercare di capire che la farmacia non ce la fa più, perché quando la ASP e lo Stato deve dare 11 mensilità o in alcuni casi 12 mensilità, la farmacia non ce la fa più a resistere. Le farmacie così falliscono. Ci sono questi 3 casi di Napoli, io la mia provincia e quella di Catania, abbiamo delle difficoltà con alcune farmacie. Ecco, noi altri non vogliamo, sinceramente, questa è la cosa che più ci fa male, perché crediamo di aver fatto sempre nel migliore modo il nostro lavoro. Andiamo al discorso di oggi e quello che interessa. Sì, anche il tavolo della remunerazione che è proprio in corso in questi minuti, di che cosa si tratta? Perché già a dirla così sembra che andiate a fare delle rivendicazioni proprio sul profilo. Sono sotto due aspetti. Da un lato è quella che non riusciamo più a sopportare questo ulteriore balzello, perché sinceramente abbiamo visto che la farmacia viene utilizzata come un bancomat, perché è un posto dove semplicemente si può fare un prelievo. E quindi negli ultimi anni abbiamo visto, l'anno scorso col prelievo forzato all'1,4, poi con l'altra manovra dell'1,82, abbiamo visto con il decreto Salve Italia le quasi 5.000 farmacie nuove che si apriranno. Ma di questo comunque siamo coscienti e saranno colleghi ben voluti sicuramente da tutti quanti. Ora con questo ulteriore balzello dell'1,83, sinceramente i nostri conti non contano più, non tornano più. L'altra dimenticazione era quella di far passare da un margine alla farmacia in quota percentuale a un margine fisso per la dispensazione. Perché in questa maniera, siccome il farmaco in Italia ha tra i prezzi più bassi d'Europa, perché sicuramente i cittadini hanno motivo spesso di lamentarsi, però vi posso dire con dati alla mano, che non sono soltanto nostri, ma sono dati di Farmindustria, sono dati comunque del Ministero, in Italia il prezzo dei farmaci mutuabili è tra i più bassi d'Europa. Infatti in alcuni casi abbiamo il problema che spesso non si trovano i farmaci, perché i farmaci vengono rivenduti in altre nazioni. Quindi da questa situazione, dal discorso del un abbattimento sempre costante dei prezzi, dal fatto dei generici, abbiamo chiesto, anche perché è una cosa che sta avvenendo in tutti i paesi europei, di fare questo passaggio da una remunerazione a percentuale a una remunerazione a pezzo, per ogni scatolo che noi altri consegniamo al cittadino. Questo darebbe l'opportunità allo Stato di poter distribuire e acquistare lui direttamente, con sconti che non sono gli sconti che adesso ha la farmacia, e quindi avere un ulteriore risparmio, e noi altri avere garantita quella marginalità che potrebbe far sopravvivere la farmacia. Oggi si è aperto al Ministero della Salute questo tavolo, ecco perché il mio presidente, io sono qui con voi altri, il mio presidente Anna Rosa Racca invece è al proprio, tavolo è proprio lì, e ci auguriamo che questo sia l'inizio di un percorso che possa andare anche a tappe forzate anche nel mese di agosto avanti, per cercare di dare una speranza a noi e per cercare di trovare tutti quanti insieme la possibilità di un ulteriore risparmio. Perché se continuiamo così con i tagli lineari, come diceva giustamente prima il direttore, poi da qualche parte sicuramente servizi e attività non si potranno fare. Come noi attualmente sì. In Italia, scusi, così completo il discorso, noi attualmente in Italia abbiamo sicuramente un servizio sanitario nazionale che può essere criticato, che sicuramente avrà dei problemi in alcuni Questo posti. Credo che sia proprio inconfutabile questa situazione, perché abbiamo visto quanto la sanità effettivamente mangi anche delle finanze pubbliche al punto da portare delle intere regioni alla fase di dissesto, vicepresidente, lei lo sa bene, insomma. Questo sicuramente. Però le posso dire, per quanto riguarda la farmacia, ecco il problema per cui noi altri ci poniamo anche in questa posizione, è che la farmaceutica territoriale, cioè la farmaceutica che viene passa tramite le farmacie, sia quelle private che quelle comunali, e quest'anno entro i limiti imposti per legge, anzi è sotto budget, quindi la cosa ci preoccupa un attimino, se tu, sia le persone che sono state, in ogni caso non soltanto noi, i medici, quindi tutta quanta la filiera, sono stati giusti nel calcolare tutto questo, vengono ulteriormente penalizzati, la cosa un po' ci preoccupa. Naturalmente, ancora una volta, molti ascoltatori dicono, ma insomma basta prendere le difese di una categoria che può essere sicuramente ascritta fra le tante della casta in Italia. E noi abbiamo voluto capire le motivazioni perché domani si abbassano le saracinesche, poi possiamo contestare tutto, parlare anche di categoria di privilegiati, e sicuramente ci sono tante farmacie. Io parlo per esempio per il paese dal quale vengo, adesso non lo ricordo perché poi magari è facile anche ricordare per chi ci abita di chi sto parlando, ma insomma c'è una famiglia che da anni vive sulla base appunto dell'attività di questa che è una vera e propria azienda, sono in tanti ad operare lì dentro, quasi una situazione appunto di monopolio, se la vede un po' con la farmacia comunale, ma insomma lo sappiamo bene che sono business a tutti gli effetti anche questi. Però domani insomma all'ordine del giorno della contestazione c'è anche molto altro, non ci piacerebbe neanche vedere prossimamente tanta gente in mezzo alla strada, perché di punto in bianco, come diceva Nicolosi, si fanno i tagli lineari in maniera anche un po' così indiscriminata e non razionale. Cesare Fassari, direttore di quotidianosanità.it, non mi ricordo di altre proteste di questo tipo. È mai successo che i farmacisti abbiano abbassato la saracinesca in passato? Sono io che ho proprio una memoria scarsissima. No, è successo. Diciamo, ci sono state anche altre forme di lo cosiddetto sciopero all'indiretta, cioè bianco, diciamo, di altro tipo. Esatto, i farmacisti tenevano la saracinesca aperta, però non onoravano la loro convenzione con la sanità pubblica, per cui quindi se si andava per esempio a misurare la pressione, un cittadino, un vecchietto, magari garantivano determinati servizi, ma che cosa non garantivano invece? Tu andavi con la ricetta, la ricetta diciamo che ti dà diritto al farmaco gratuito, salvo il ticket. Invece dovevi anticipare tu il pagamento e poi chiedere il rimborso all'ASL. Era una forma di protesta appunto indiretta verso il servizio sanitario. E scioperi veri e propri ci sono stati, ma adesso era parecchio che non ne vedevamo. C'è da dire che tutte le categorie della sanità hanno manifestato la loro agitazione in merito. Certamente è un momento delicato, come dicevamo all'inizio. Ecco, se c'è un tempo, volevo tornare un momento, certo, sulla volentieri, questione dell'incontro di oggi. Sì. Sulla remunerazione con il Ministro della Salute e le regioni. Ecco, questa secondo me può essere una di quelle occasioni, e devo dire che i farmacisti, per quanto verso di loro nutri una simpatia, diciamo, naturale, li ho sempre un po' accusati di farsi sempre scavalcare dagli eventi, cioè di dover rincorrere sempre le novità. Hanno evidentemente delle lobby molto forti, preventive. No, sto scherzando, no, in realtà sono assolutamente ben rappresentati, mi sembra, infatti. È anche un po' secondo me è troppo conservativa. Ricordiamo tutti la polemica con le parafarmacie, le libere. Ecco, poi infatti questa cosa la volevo anche aprire oggettivamente. Eccetera. Adesso questa cosa della remunerazione, che è un tavolo che si apre perché c'è una legge dello Stato che dice che bisogna cambiare il sistema, non dimentichiamo, è una legge addirittura del 2010, poi vari vicissitudini, il tavolo si apre oggi. Lo scopo qual è fondamentalmente? Da un lato è quello di cambiare l'attuale sistema che remunera il farmacista per la parte di incassi che fa con la sanità pubblica, e poi il farmacista c'è gli altri incassi privati, vende farmaci da banco, vende prodotti cosmetici eccetera, però noi quindi qua stiamo parlando di come remunerare il farmacista per la sua attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, e quindi la convenzione è fondamentalmente oggi basata sull'erogazione dei farmaci, ma non solo, ci arrivo tra un attimo e vedremo come è collegato il problema oggi sul tavolo di Balduzzi. Fino ad oggi questa convenzione è onorata con una percentuale fissa stabilita per legge sul prezzo di vendita al pubblico del medicinale. Cosa sta succedendo? Intanto i farmaci più costosi ormai sono fuori dalla farmacia, quindi i guadagni più forti della farmacia sui farmaci cosiddetti innovativi non ci sono più, perché vengono quasi tutti erogati attraverso il canale ospedaliero. Poi stanno crescendo i farmaci generici, che costano di meno perché sono senza più la tutela del brevetto. E certamente gli equivalenti anche lì, altro esatto. Terreno di grande discussione. Esattamente. Quindi comunque, al di là di tutto, la necessità di rivedere un sistema che era ancorato appunto ad anni fa, con un mercato farmaceutico in costante crescita, nuovi farmaci ogni anno sul mercato, e quindi questa percentuale in qualche modo era effettivamente remunerativa. Oggi questa percentuale rischia a breve di essere l'impoverimento delle farmacie, ma non basta, e qui chiederei uno scatto di orgoglio innovativa del farmacista. C'è un'altra legge di cui pochi parlano, che è stata approvata, una delle poche leggi della scorsa legislatura che si occupa di sanità, e che ha istituito le cosiddette farmacie dei servizi. Che cosa sono, detto in poche parole? Proprio per il fatto che la farmacia, come diceva anche prima l'esponente di Federfarma, è in tutta Italia, anche nei comuni più disagiati, lo Stato e il legislatore ha capito che aveva tra le mani una rete di potenziali servizi sanitari straordinaria, che poteva aggiungersi a quella degli ospedali, degli studi medici, degli ambulatori, e quindi ha autorizzato le farmacie, via via poi con decreti attuativi, che ormai sono stati tutti diramati, a fare anche altre cose in farmacia oltre che vendere medicine, e quindi piccola analisi diagnostica autogestita dal paziente, collaborare ai programmi di educazione sanitaria, raccogliere le prenotazioni. Sì, proprio le farmacie mediche. Assolutamente del territorio, mi ricordo di questo discorso, che però mi pare sia rimasto in larga parte appunto inattuato. In larga parte inattuato, e qui viene anche che viene inattuato probabilmente perché oggi i soldi per incentivare queste cose non ci sono, quindi bisognerebbe che le farmacie fanno anche un ragionamento un po' più a medio termine, vedere in prospettiva come piazzarsi, perché il sistema di remunerazione, ad esempio, potrebbe essere anche prevedere anche una parte che valorizzi il ruolo del farmacista, non più solo come colui che ti prende il farmaco e te lo dà e quindi io ti pago in percentuale su questo. Sì, guarda, qualche ascoltatore li chiama i commessi, quindi poco più che commessi. Anche invece come un vero e proprio, qual è? Oltre che laureato in farmacia, che è una disciplina molto difficile dove si studia non solo farmaceutica ma anche salute in generale, ma hai un operatore sanitario che ti dà un consiglio non solo sul prodotto ma in generale. Ad esempio negli Stati Uniti e New York abbiamo le farmacie che hanno online nel loro database tutti i dati clinici dei loro assistiti. Sono loro che avvertono quando gli arriva una ricetta all'assistito, dice: attento che qui in base alla tua cartella clinica, ai tuoi dati, questo farmaco non è del tutto appropriato. Tu ne sei allergico, oppure interagisce con uno che ti ha dato un mese fa l'altro dottore. Cioè il farmacista deve fare questo salto, anche, ma non solo per se stesso, che è fondamentale perché uno si muove anche per i propri interessi, e quindi fare un salto facendo diventare a tutti gli effetti la farmacia un servizio pubblico a tutti gli effetti, e quindi essere remunerato in quota parte anche per questo. Con i soldi che ci sono oggi, esatto, lo so, però il problema è che quello è molto del futuro, perché con i soldi che abbiamo a disposizione oggi in cassa nel nostro paese, credo che questo futuro purtroppo in questo momento è un po' lontano per altri problemi, poi è tutto condiviso. Se lo stesso livello di remunerazione si dividesse tra questi due attività, Comunque, essere una via d'uscita. O una riorganizzazione, una razionalizzazione necessaria. Allora, volevo rispondere all'ascoltatore Federico che ci scrive, parliamo del millantato sconto, condivido questo commento che fa, le famiglie che avrebbero dovuto fare le farmacie comunali sui prodotti per l'infanzia. Millantato, niente che meno, dal ministro in una presentazione ufficiale con il presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni. Siamo andati dietro, Federico, a questa notizia noi per settimane, dopo averla preannunciata, proprio quando abbiamo cominciato a parlare, lo abbiamo fatto per mesi, della difficoltà per le famiglie appunto di fare la spesa, si fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese, arriva un bambino, un neonato in casa, è una spesa che può anche ribaltare completamente il bilancio familiare, quindi con grande soddisfazione avevamo colto questa iniziativa, non siamo riusciti a parlarne perché nessuno ne è informato, per cui rimandiamo. Infatti volevamo anche capirne qualcosa di più da parte della federazione appunto delle farmacie comunali con Venanzio Gizzi che però è ancora in questo tavolo sulla remunerazione. Ci aveva detto con difficoltà, forse riuscirò ad uscire per fare un flash nella vostra trasmissione, noi però ancora ci speriamo, così come speriamo di poter fare anche una battuta con Andrea Mandelli, presidente della federazione degli ordini dei farmacisti, lo stesso in questi minuti a questo tavolo. Prima di ridare la parola a Federpharma, però abbiamo Riccardo Fatarella da Roma, che è il presidente della sezione sanità Confindustria Roma e Lazio, che saluto e ringrazio molto per aver chiamato addirittura il numero verde per voler intervenire. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei, agli ascoltatori e ai suoi ospiti. Allora, ci dia un po' il suo punto di vista. Chiaramente lei deve tenere in considerazione che siamo una trasmissione per i consumatori, per cui ci dica certo, un po'. Certo. Allora, il primo punto di vista, la prima considerazione è che in una fase di difficoltà del Paese a nessuno fa piacere che vengano ridotte le proprie posizioni conquistate con anni di lavoro e fatica, ma se nessuno si muove, nessuno rinuncia a qualcosa, questo Paese non lo salviamo. Quindi in qualche misura questa è una coscienza che dobbiamo avere tutti, imprenditori, cittadini, commercianti, farmacisti, medici, chiunque lavori in questo settore e viva in questo paese, ci voglia continuare a vivere e a farlo crescere. Quindi è inevitabile, la fase è questa. Secondo, ho sentito un commento prima di un suo ospite che diceva che tagliare il 10% della spesa sanitaria nella pubblica amministrazione, nella sanità pubblica, vuol dire insomma tagliare compromettere i livelli di assistenza. Beh, guardate, questo forse in qualche parte del paese, il paese non è tutto uguale, dire no, perché al sud, da quello che ci ha raccontato, che comunque già questa condizione sta portando alla chiusura di molte farmacie che pure non vengono rimborsate dalla ASL come dovrebbero, sta capitando un po' da parte per le farmacie, non la pubblica amministrazione. Il problema è proprio lì, dobbiamo tagliare di più la pubblica amministrazione. Io sono stato per lunghi anni amministratore e direttore generale di ASL e vi assicuro, insomma, i tagli, gli sprechi, le inefficienze sono mostruosi. Adesso non voglio come li combatteva, presidente, mi scusi? A un certo punto dando le dimissioni, quando non mi facevano fare quello che ritenevo giusto per tutelare i cittadini. La struttura sanitaria, non dappertutto, ma in gran parte nel paese, è costruita a modello delle esigenze degli operatori o delle esigenze di alcune parti di essa, quasi mai, anche se ci sono alcune eccezioni, in rispetto alle esigenze dei pazienti. Insomma, chiunque abbia usato un pronto soccorso in queste ore nella mia città meravigliosa che è Roma, avrà notato a fianco a momenti di grande dedizione di operatori anche grande sciatteria e disinteresse. Quindi fare di tutta un'erba un fascio è sempre pericoloso. Allora, in tutto questo dobbiamo tagliare le cliniche stanno tagliando del 25%, non del 2%, 25% nel Lazio negli ultimi due anni, non vado indietro, stanno aumentando i costi. Allora, tutto questo cosa facciamo? Dobbiamo tutelare la parte debole della popolazione, perfetto, ma chi può pagarsele le cure? È bene che cominci a pagarsele, se no la famiglia che lei citava, per la quale la nascita di un bambino può costituire un problema, può costituire un problema se una famiglia con difficoltà. Ci sono per fortuna fasce ancora consistenti del paese per le quali pagare direttamente dei farmaci o dei presidio degli ausili o dei ricoveri, almeno in parte, non è drammatico e darebbero un aiuto a coloro che viceversa pagandoli. Presidente, la ringrazio molto per la sua testimonianza. Io devo salutarla perché abbiamo raggiunto Venanzio Gizzi, Assofarm, il presidente di Assofarm. La riunione appunto al Ministero della Salute sul tavolo della remunerazione è terminato, per cui adesso sentiremo come si è concluso. Gizzi, come si è concluso il tavolo? Intanto, e perché le farmacie comunali domani hanno preferito agire in questo modo? Niente, non sentiamo niente, per cui deve trovare una postazione migliore. Presidente, ci dispiace perché volevamo assolutamente sentire cosa fosse successo appunto a Roma. Intanto sentiamo la testimonianza di Stefano da Roma. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io sono il marito di una beneficiata del diritto medievale che praticamente i media hanno inculcato nella popolazione. Cosa vuol dire? Ho ereditato la farmacia dalla mamma che morì improvvisamente insieme al fratello. Ora, praticamente quando questa farmacia è stata ereditata, noi abbiamo... la mia famiglia ha pagato delle tasse di successione molto alte che ci hanno obbligato ad indebitarci per continuare l'attività. E questo dura da, praticamente l'attività dura da 30 anni, praticamente noi abbiamo capitalizzato tutti i guadagni prendendo a volte, essendo due i titolari, a volte una remunerazione inferiore ai 5 dipendenti che sono occupati attualmente tuttora nella farmacia. Oggi come stanno vivendo appunto questi dipendenti e qual è la situazione? I dipendenti per ora noi abbiamo sempre ventilato, perché praticamente la nostra azienda è sempre stata gestita con criteri diciamo di parsimonia, senza fare passi oltre la gamba, che forse qualche collega di mia moglie avrà fatto e avrà dato adito a queste critiche. I dipendenti pensano di essere coperti dal contratto di lavoro e di non poter essere licenziati, ma noi praticamente già da un anno dovremmo aver licenziato una persona, non l'abbiamo fatto. Contemporaneamente abbiamo avuto una gravidanza, abbiamo dovuto assumere un'azienda a tutti gli effetti. Stefano, c'è un altro problema che vorrei fare per rapidissimo. Sperava di andare in pensione all'età di 57 anni invece praticamente sua figlia ci andrà a 67. Dicono che la pensione di una farmacista sono 520 euro. Guardi Stefano, diamo sempre la colpa ai giornalisti, perché ci sarebbero tante cose da dire sul tema di questa mattina. Avrei dovuto invitare 50 persone e 50 parole avrei dovuto dare, per cui adesso ci mancava pure che aprissi la parentesi del trattamento pensionistico, che è pure importante naturalmente, me ne rendo conto. Oggi me lo cerchiamo, ci rimangono 6 minuti di tempo prima di chiudere la trasmissione, di circoscrivere l'argomento alla protesta di domani. Venanzio Gizzi, ce la facciamo? Mi faccia un po' sentire se la sento bene adesso. Presidente, grazie. Eccoci qua. Allora, ci dica come si è chiuso il tavolo e perché le farmacie pubbliche domani aderiscono alla protesta ma senza abbassare la saracinesca. Sì, grazie per l'attenzione, grazie per la partecipazione a questo interessantissimo dibattito. Allora, il tavolo l'iniziativa del Ministero della Salute è stata encomiabile. Peraltro viene attuata una legge del 2010, quindi anche con ritardo, però è essenziale che il tavolo sia partito. È stato un incontro preliminare dove ciascuno della filiera ha esposto le proprie idee, i propri pareri in merito. Ci sarà un approfondimento con gli attori direttamente interessati che presenteranno una proposta. Quindi un'azione ancora interlocutoria stamattina, mi pare di capire. Ci troviamo adesso d'accordo con i titolari di farmacia, con Federfarma e con i distributori per lavorare insieme vedere di prospettare alcune linee in un prossimo corso. Presidente, si può fermare in un punto e mettersi bene con la cornetta davanti alla bocca, perché temo che lei si stia spostando e la sentiamo con difficoltà. Mi interessa capire la protesta di domani e la vostra modalità abbastanza particolare di aderire senza però chiudere appunto i vostri negozi sul territorio, le vostre strutture. Sì, il sistema delle farmacie è ormai all'osso. Siamo in una situazione economica, soprattutto noi delle farmacie comunali, estremamente difficile, delicata, e tutti gli sforzi, pur in un momento economico difficile del nostro paese, devono essere portati avanti. Perché l'ultima, le farmacie già hanno dato tanto e stanno rischiando di dare molto di più rispetto a quello che possono. Perché voi tenete aperto domani i vostri uffici, le vostre strutture? Perché le nostre farmacie, le farmacie comunali, le farmacie pubbliche, non possono procedere con uno sciopero, con una serrata, proprio per le caratteristiche delle farmacie stesse e per l'essenza del settore pubblico delle farmacie. Noi abbiamo i nostri titolari che sono i sindaci stanno, raccomandano bene che le popolazioni femminili, soprattutto le più deboli. Guardi Gizzi, faccio proprio fatica a sentirla purtroppo. Io spero che almeno lo spirito del suo intervento i nostri ascoltatori lo abbiano compreso. Spero di essere più fortunata con Andrea Mandelli, presidente della FOFI, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti. Presidente, buongiorno, ci risentiamo anche con lei. Ci rimangono davvero pochi minuti. Voglio sapere la vostra posizione appunto sulla protesta di domani. Le metto anche lì un'altra provocazione del Codacons, che addirittura pur condividendo alcuni aspetti della vostra protesta, perché riconosce che ci sono migliaia di posti a rischio, addirittura chiede sconti sui medicinali perché sono più in difficoltà le famiglie italiane. In 2 minuti di tempo ce la fa a spiegarmi la vostra posizione? Ma guarda, innanzitutto noi ovviamente rappresentiamo l'ente di diritto pubblico che iscrive tutti i farmacisti, quindi la preoccupazione che la federazione vuole esprimere è sostanzialmente duplice. Da un lato una preoccupazione reale sui livelli qualitativi del servizio che fanno della professione del farmacista in Italia una delle eccellenze del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi noi siamo preoccupati sotto il profilo dell'impatto che avrà questa manovra, sotto, ripeto, la qualità che i cittadini avranno del servizio, e quindi è un po' un compito della federazione. La legge istitutiva degli ordini proprio dà alle federazioni degli ordini questo compito di salvaguardare i livelli di assistenza del cittadino. E ovviamente sono d'accordo col Codacons, la nostra anche grande preoccupazione è perché questa manovra avrà logicamente l'impatto sul numero di posti di lavoro che drammaticamente troveranno probabilmente qualche momento di grande sofferenza, ed è per questo che crediamo sia importante il tavolo che il Ministero oggi ha voluto aprire per cercare una nuova maniera di remunerare il farmacista, una figura importante nel Servizio Sanitario Nazionale, importantissima con la legge sui servizi di cui abbiamo finora parlato, ma che è ora di mettere veramente in pratica, una professione che è quella più vicina ai cittadini, una professione che nel momento in cui bisogna coniugare la scarsità delle risorse con la necessità di dare un grande servizio a una popolazione italiana che invecchia, può avere sul territorio un ruolo molto molto importante nel fare servizio e nel fare un contenimento della spesa. Quindi, Presidente, chiudo con lei perché mi rimane un minuto. Io vorrei poter sintetizzare tutti i messaggi che mi sono arrivati questa mattina da parte degli ascoltatori, che in realtà non credono molto alla vostra contestazione perché vi considerano una categoria di privilegiati, e naturalmente rispetto a quello che è successo anche un po' in passato forse non possiamo dar loro torto. Le cose stanno cambiando anche per i più fortunati, le categorie dei più fortunati, ci metto anche i giornalisti naturalmente, perché così stanno le cose. Che cosa possiamo rispondere? Non riesco a leggerli tutti, però le posso solo lasciare immaginare quale sia il tenore delle considerazioni. 30 secondi di tempo se ce la fa. Velocissimo, per dire che io non rappresento i titolari di farmacie, io rappresento chi tutti i giorni lavora dietro il banco di una farmacia, chi lavora in un ospedale, chi lavora nella catena della distribuzione. Quindi io non entro nel merito della protesta, io sto solamente evidenziando le tematiche che mettono in allarme una categoria di lavoratori e dall'altra i cittadini che sono ovviamente importanti fruitori del servizio internazionale. La ringrazio. Quindi, allora io devo salutarvi tutti, io lo so che avrei dovuto toccare tanti altri argomenti, me ne scuso con tutti, ma questo è veramente un tema di dibattito che si presta alle considerazioni più ampie. Volevo salutarvi. salutare Alessandro Scirpoli, che è il numero 2000 dei nostri utenti che hanno messo il like su Facebook. Questo ci fa piacere, lo salutiamo, così come salutiamo tutti gli altri ascoltatori che ce ne hanno detti di tutti i colori questa mattina, perché credono che abbiamo difeso la categoria delle farmacie e dei farmacisti. Noi volevamo solo capire perché domani scioperano. E con questo un caro saluto a tutti.